il profeta disprezzato. Se non sa che è nulla di nuovo sotto il sole, come dice il libro dell'Ecclesiaste, allora conoscere il passato non solo è utile, ma necessario al fine di comprendere il presente. A volte si stanno vivendo situazioni che a prima vista sembrano strane o assurde, ma in seguito si scopre che ciò che succede è il normale corso degli eventi della vita. Il campo spirituale non è esente da questa legge, e poiché spesso ci si trova ad assistere ad episodi veramente incresciosi, è opportuno prendere sul serio un'affermazione di Gesù in merito ai profeti, che, calata nella realtà quotidiana, può aiutare a comprendere ed accettare situazioni molto difficili. Poi Gesù uscì di là e venne nella sua patria, e i suoi discepoli lo seguirono. E venuto il sabato, si mise ad insegnare nella sinagoga. E molti, udendolo, stupivano e dicevano: «Da dove vengono a costui queste cose? Che sapienza è mai questa che gli è data? E come mai si compiono tali potenti opere per mano sua? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non sono qui fra noi?» Ed erano scandalizzati a causa di lui. Ma Gesù disse loro: «Nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria, fra i suoi parenti, in casa sua». Marco 6:1-4. E risaputo che Gesù è stato disprezzato, disonorato, contraddetto, e questo soprattutto nella sua patria e in casa sua. Questo lo si accetta anche perché egli era veramente unico in tutte le cose, tra le quali perché è Dio fatto uomo. Ma Gesù ha preso l'occasione di quello che gli stava succedendo per estenderlo a tutti coloro che parlavano da parte sua. Ha esteso un principio a tutti i profeti: ogni profeta è disprezzato nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua. Il profeta al quale Gesù si riferiva non è un uomo originale dal comportamento originale, dal parlare originale, ma un normale essere che, quando parlava, riferiva semplicemente la parola di Dio. Proprio perché il profeta riferisce la pura parola di Dio, le reazioni della gente sono identiche a quella che ha avuto nei confronti di Gesù. Opposizione, odio, contrasti. In questo modo si avvera ciò che Gesù disse ai suoi discepoli: «Ricordatevi della parola che vi ho detto: il servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra». Giovanni 15:20. Nulla di nuovo, quindi, sotto il sole. Perché ciò che stiamo dicendo sia calato nella realtà storica, prendiamo in breve in esame la vita di due uomini che hanno lasciato una impronta non indifferente nella storia della testimonianza del Vangelo. Charles H. Spurgeon, Charles G. Finney. Charles H. Spurgeon è ritenuto dalla quasi totalità dei cristiani uno dei più grandi predicatori del suo tempo. Possedeva eccezionali capacità intellettuali, aveva una mente enciclopedica, il suo parlare era definito come un suono di campane d'argento. C'era ovviamente chi la pensava diversamente. Alcuni, sapendo che era molto giovane, che non aveva un'istruzione universitaria e che non era stato ordinato pastore, giunsero alla conclusione affrettata che egli non potesse essere un ministro qualificato. Fin qui tutto era nella norma. Ma ciò che ora viene considerato assurdo è che egli era definito un ciarlatano ecclesiastico, che il suo parlare era un insulto a Dio e all'uomo, che i più solenni misteri della religione sono da lui trattati con vari tipi di sproloqui in modo rude, brosso e irreligioso. Il mistero, commentavano ancora i suoi contemporanei, viene volgarizzato, la santità profanata, il buon senso oltraggiato e la decenza disgustata. Dobbiamo tenere presente che a esprimersi così non erano degli irreligiosi o increduli, ma dei credenti che dicevano di amare Gesù Cristo. Ora noi rabbrividiamo per il loro comportamento, ma i contemporanei di Spurgeon erano sicuri, sicurissimi di esprimere delle opinioni sagge e sensate. Charles G. Finney è stato un uomo che ha suscitato grandi risvegli nella sua generazione. Per quanto fosse stato attaccato duramente dai predicatori del Vangelo per aver introdotto delle innovazioni, una delle accuse contro la persona di Finney era che egli rimproverava non solo i peccatori inveterati, ma anche i cristiani e i ministri dell'Evangelo. quanto alle riunioni di risveglio, molti si lagnavano che si favoriva il fanatismo come pregare per le persone facendo i nomi. Spesso, Finney incoraggiava le donne che avevano realizzato la nuova nascita a pregare ad alta voce per la salvezza dei loro rispettivi mariti. Nelle riunioni invitava la gente per nome a venire davanti a tutti, o ad alzarsi in una riunione pubblica per testimoniare che avevano dato il loro cuore a Dio. Inoltre, Finney teneva delle riunioni di preghiera pubbliche nelle quali si pregava specialmente per alcuni quartieri particolari della città. Tutto questo era motivo di scandalo e di turbamento. La vita di Spurgeon e di Finney, le opposizioni al loro messaggio, gli assurdi giudizi, non sono episodi sporadici, perché quasi la totalità di coloro che hanno osato esporre il Vangelo nella sua pienezza hanno subito la stessa sorte, sorte come quella del loro Maestro Cristo Gesù. Ciò che lascia perplessi è che profeti e opposizione si ripetono con la scadenza di una legge fisica. Quando C è un profeta, inevitabilmente C è l'opposizione, C è la persecuzione. Preso atto di questa situazione, gli uomini religiosi di ogni epoca dovrebbero interrogarsi se la loro opposizione nei confronti di chi predica la parola di Dio è animata da un buon spirito, perché nessuno rimane impunito se disprezza un profeta. Lo scrittore Lewis lo ha espresso in modo mirabile. L'uomo che non ubbidirà alla saggezza degli altri ne rischierà per se stesso di avventurarsi alla sua conquista, alla fine segnata. La società in cui i semplici ubbidiscono ai pochi profeti veggenti è una società che può vivere. Una società in cui tutti fossero profeti veggenti avrebbe una vita molto più piena e completa. Ma una società in cui la massa è ancora composta di semplici e non si dà più retta ai profeti può arrivare solo ad essere superficiale, meschina, abietta e alla fine a estinguersi. Dobbiamo andare avanti o andare indietro. Restare fermi e morire, C.S. Lewis Studio, preliminare sui miracoli. Se Dio parla per insegnare, per correggere, per educare, per convincere, alla giustizia. Se egli usa la bocca dei profeti, è evidente che per chi ascolta e rifiuta il messaggio, non rimane che la morte. E ciò che è successo al popolo di Israele. Il popolo di Dio non ha voluto ascoltare i profeti che l'Eterno ripetutamente ha mandato e non solo è stato deportato, ma dopo millenni ne vediamo le triste conseguenze. Il popolo di Israele dovrebbe essere un monito per noi. Deve essere uno strumento visivo e palpabile che non vi è scampo se non si ascoltano i profeti. In molti luoghi sono sorte delle testimonianze, ma si sono spente perché la voce dei profeti veniva disprezzata. Perché la loro voce era un negativo disturbo alla loro tranquilla vita dove Dio non aveva il potere di intromettersi per ricondurli sulla retta via. La persona del profeta è scomoda. La sua voce è scocciante e per questo, non potendo farlo tacere, si toglie di mezzo. Anni fa, e forse tornerà ben presto, veniva eliminato con la morte. Oggi si elimina il profeta accusandolo ingiustamente, mettendolo in cattiva luce, escludendolo da una vera e propria comunione. Ciò che non viene preso in seria considerazione è che il profeta è disprezzato nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua. Nulla di nuovo, e se si cal è di nuovo, sta nel fatto che tutto si svolge in una normalità, tale che il profeta non sembra un profeta, e normale che alcuni non siano onorati in casa propria e dai suoi conoscenti, perciò riconoscere un profeta in casa è ancora più difficile. Eppure, qualche speciale segno vi deve pur essere, e Gesù ne è un esempio. Come uomo Gesù fino a 30 anni non aveva problemi con il prossimo, come insegnante neppure, come figlio o fratello, nemmeno. Cristo Gesù ha conosciuto difficoltà e opposizione quando ha iniziato il suo ministero da profeta, quando si è presentato come la voce di Dio e non come un semplice religioso. Così è del profeta che viene disprezzato. Non è tanto la sua persona ad essere disprezzata, non è il bene che compie a dar fastidio, ma il contenuto del messaggio di ravvedimento, di giudizio divino, di verità. Gesù disse ai suoi fratelli, Il mondo non può odiare voi, ma odia me perché io testimonio di lui. Che le sue opere sono malvagie. Giovanni 7:7. Perciò l'odio o l'avversione rivolta verso il profeta non è tanto per un'antipatia nei riguardi della persona, ma piuttosto perché quando parla, non parla da sé, ma è Cristo che parla in lui. Così, un profeta può essere un buon marito, un uomo ideale, ma quando apre bocca per annunziare il regno di Dio viene automaticamente rifiutato, i rapporti vengono incrinati. Può andare d'accordo con tutti, ma non con i propri familiari e parenti. Questo ha dell'assurdo, ma se accettiamo per vero ciò che Gesù ha detto, allora veramente non vi è nulla di nuovo sotto il sole. Uomini di Dio che sono apprezzati dalla maggioranza, riconosciuti per i loro doni nella patria, vengono giudicati severamente e condannati. Gesù non è stato crocifisso lontano dalla sua patria, ma nel centro religioso del suo popolo. Il destino del profeta è quello di soffrire opposizione laddove proprio non si aspetterebbe, è quello di soffrire negli affetti più cari, è quello di non avere l'appoggio dove ne avrebbe più necessità. Se così non è, è probabile, stando a quello che Gesù ha detto, che non sia un profeta. Con questo non significa che chi non ha opposizione non sia un credente, che non ami Gesù Cristo, il prossimo e il regno di Dio, ma non ha la chiamata di profeta. Così, ancora una volta, servire Dio fedelmente ha sempre un costo proporzionato alla chiamata. Se uno è un conduttore, ha i pesi da conduttore. Se è un insegnante, avrà le responsabilità come insegnante, mentre se uno è un profeta, è disprezzato nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua. Nulla di nuovo, ma forse lo diventa per chi vive da profeta disprezzato. Marzo 2005, Ellero.